Soundcheck, il suono della musica di Gigi Telesforo. Buon pomeriggio a tutti da Gigi Telesforo, siete in contatto con il soundcheck di Radio 24 e oggi siete collegati con noi direttamente dalla Svizzera italiana. Ci troviamo esattamente a Lugano in un ufficio bellissimo nella sede di RSI Radio Svizzera Italiana, perché sono venuto a trovare il mio amico Sergio Albertoni, che è una delle voci più famose qui nella Svizzera italiana. Sergio mi ha detto: devi precisare sempre, perché parliamo di Svizzera italiana, una delle voci più famose della radiofonia per quanto riguarda la musica di qualità, perché ormai da tanti anni guida, produce e conduce programmi di bellissima musica qui su Rete 2 di RSI Radio Svizzera Italiana. Quindi buon pomeriggio a Sergio Albertoni. Buongiorno, un saluto a tutti e che presentazione, grazie. Beh, l'hai fatta anche tu molte volte, parlando di me, io sono stato più volte ospite dei tuoi programmi e fra i miei programmi preferiti, fra quelli che tu produci, c'è Babilonia. E se sono qui è proprio per chiederti, per parlare anche un po' dei gusti musicali della Svizzera, perché noi conosciamo i gusti musicali degli americani, degli inglesi che invadono i nostri territori con le loro produzioni discografiche, forse un po' i gusti dei francesi, dei tedeschi, ma degli svizzeri non parla nessuno. Beh, siamo una realtà particolare, intanto siamo pochi, siamo 7 milioni, una realtà anche geograficamente limitata e che dipende ovviamente dai tre bacini culturali che ci circondano, quello italiano, quello francese e quello tedesco. Io dico sempre Svizzera italiana perché noi siamo una minoranza e come tale però veniamo difesi proprio con la presenza di una radio nazionale che ci permette quindi di veicolare anche i valori culturali legati alla nostra regione. Ci sono tre bacini di utenza e quindi anche le tipologie per quel che riguarda la discografia, il suono della musica, devono mirare a culture diverse. Beh, naturalmente per quanto riguarda tutti i generi cantati siamo legati appunto alla nostra cultura, quindi è chiaro che qui da noi la musica italiana è molto importante per quanto riguarda i cantautori, il pop, il rock naturalmente. Nella Svizzera tedesca il discorso è un po' diverso perché il dialetto ha una valenza preponderante anche sul tedesco e quindi ecco che i gruppi svizzeri, svizzeri tedeschi in Svizzera vengono molto apprezzati. Discorso diverso invece per i nostri cantautori. Qui per esempio da noi va fortissimo Davide van der Sfroos, perché porta avanti un discorso culturalmente lombardo e noi in fondo siamo molto lombardi. Quello che tu fai qui a Rete 2, nella Radio Svizzera Italiana, è produrre programmi di musica, lo fai da tanto tempo, di grandissima qualità. Io ho partecipato come ospite di un bellissimo appuntamento di Babilonia, programma con il quale tu fai viaggiare in giro per il mondo i tuoi radioascoltatori, puntando molte volte anche su suoni, sonorità e artisti un po' estremi musicalmente. Beh sì, noi andiamo indifferentemente dalla musica classica all'heavy metal, perché siamo convinti che tutta la musica abbia un'importanza culturale. È solo questione di tempo, nel senso che molti contemporanei di Mozart sono scomparsi, oggi non ce ne ricordiamo più, non li ascoltiamo più. Questo succederà probabilmente al 99% della produzione heavy metal di oggi, ad esempio. Ma quell'1% che noi cerchiamo di scovare e siamo convinti che possa restare nella storia, ecco che vale la pena di metterlo in evidenza, sottolinearlo. Allora, io vorrei partire con la musica qui al Soundcheck e ti vorrei proporre il talento di questo vocalist, chitarrista bravissimo, che io ho scoperto diversi anni fa e tra l'altro lo consigliai anche a Carlo Pagnotta per quella edizione di Umbria Jazz, e ti sto parlando del 2005-2006. Adesso è anche una stella di prima grandezza della soul music e del rhythm blues contemporaneo, avendo cantato e prestato la sua voce a Herbie Hancock, a Quincy Jones, e vi parlo di Raoul Midon, che recentemente ha fatto la sua apparizione nel programma con Stefano Bollani. Il brano si intitola Sitting in the Middle, Raoul Midon al Soundcheck di Radio 24. still feels like it's right now to you. When I, everything is everything, and someday, someday, yeah, la la la la la la la la. How about singing this song to you? Il sound, la voce di Raoul Midonco, Sitting in the Middle, quando siete in contatto con la radio svizzera italiana, ovvero siete in contatto con il soundcheck di Radio 24, ma in questo momento ci troviamo nella sede di Rete 2 RSI Radio Svizzera Italiana per incontrare Sergio Albertoni che ci parla di musica, della musica che si ascolta qui in Svizzera. Soundcheck. Check, check, one, two. Il suono della musica. Soundcheck. Il suono della musica. Già percepì la confusione, você quer fare prevalecer opinião sobre a razão. Non pode ser, non pode ser. Pra que trocar o sim por não, se o resultado é solidão? Em vez de amor, uma saudade vai dizer quem tem razão. E questo è un regalo che ho fatto al mio amico Sergio Albertoni, il nostro ospite al soundcheck di Radio 24. Noi siamo tuoi ospiti qui nella sede della Radio Svizzera Italiana di Rete 2, dove Sergio come producer guida ormai da anni alcune delle rubriche musicali più importanti del territorio. Un regalo che ti faccio, visto che ti piace viaggiare con la musica e far viaggiare i tuoi radioascoltatori. Questa era la voce meravigliosa di Gau Costa con Brigas Nunca Mais, un successo qui tra l'altro in una versione dal vivo. Allora, vediamo di capire come funziona l'organizzazione discografica in Svizzera. È perché ci sono, abbiamo detto, bacini di utenza diversi, appartenendo anche a culture e avendo lingue diverse, il francese, l'italiano e il tedesco. Come si organizza una radio come la tua? Quando tu organizzi i programmi, come li organizzi pensando proprio a queste differenze linguistiche e culturali che ci sono nel tuo paese? Beh, penso naturalmente al nostro pubblico e quindi mi limito generalmente a musica italiana, musica per quanto riguarda i testi naturalmente, e poi inglese, spagnola, portoghese, quello che siete abituati ad ascoltare anche voi. Evito i gruppi che cantano in svizzero tedesco proprio per una questione legata alla regione nostra, che non capirebbe alcuni riferimenti anche proprio nei testi, che sono riferimenti culturali precisi. Poi ti dicevo della Svizzera tedesca, in realtà si dovrebbe accennare a un fenomeno particolare che è legato agli italo-svizzeri di seconda, terza e ormai anche quarta generazione, che ascoltano, sono di fatto bilingui e anche biculturalmente dotati, come dire. E questo spiega il successo di cantanti come Jovanotti o Ramazzotti nella Svizzera tedesca. Ecco, io credo che i nostri amici in contatto su Radio 24 si staranno domandando: ma perché ci parlano della cultura e della diffusione della musica in Svizzera? Perché la Svizzera da alcuni anni a questa parte è diventato un polo di grande attrazione, soprattutto da un punto di vista concertistico. Ci sono dei festival importanti e si fa moltissima musica live. Infatti Rete 2 della Radio Svizzera Italiana, che cosa ha fatto? Ha organizzato uno studio di registrazione ormai da un po' di tempo all'interno della struttura radiofonica, dove anche chi vi sta parlando si è esibito dal vivo con il massimo della tecnologia possibile. E quanto sfruttate questo studio per la musica dal vivo a Rete 2? Beh, sfruttiamo molto. Abbiamo intanto una stagione concertistica e poi l'occasione di incontrare artisti, come è stato il tuo caso, e farli esprimere liberamente anche al di là di quelle che sono le presentazioni ufficiali di un prodotto discografico. Tu sai bene che noi diamo l'occasione agli artisti di esprimersi come se fossero a casa loro, e questo è un grosso vantaggio radiofonico. Questo perché la musica in Svizzera è un elemento importante da un punto di vista artistico e culturale? Beh, sicuramente. In Svizzera abbiamo una realtà che si chiama Pro Helvetia, è un'istituzione che si occupa di sostenere gli artisti, finanziariamente intendo, anche nelle loro tournée all'estero, quindi promuove la diffusione della musica svizzera nel mondo e sono soldi pubblici. Quindi questo per dire che ci teniamo, insomma. Sergio, hai mai avuto Robert Glasper da te in studio? Purtroppo no. Allora te lo faccio ascoltare io con questa novità. L'album è stato appena pubblicato dalla Blue Note Records, è stata anteprima qui al Soundcheck di Radio 24 e qui ti faccio ascoltare Robert Glasper con la formidabile Jill Scott in questo brano intitolato Calls. Soundcheck, il suono della musica. Siete di nuovo in contatto con il Soundcheck di Radio 24 e ci troviamo qui nell'ufficio di Sergio Albertoni, RSI, Radio Svizzera Italiana, qui a Lugano. E Sergio, lo abbiamo detto, è un producer per Rete 2, produce programmi di musica da tanto tempo, produce soprattutto programmi con musica dal vivo in questo studio bellissimo, super attrezzato, dove anche chi vi sta parlando si è esibito proprio nella giornata di ieri per una serie di appuntamenti musicali che qui su Rete 2 andranno in onda fra qualche mese, credo, insomma, il tempo di assemblare le puntate. Allora, torniamo a parlare di musica. Quanta musica gira dal vivo in Svizzera? Quanta musica, quanti festival seguite con Rete 2, Sergio? Beh, sono molti festival. Noi seguiamo in particolare quelli di musica classica e di musica jazz. Mi piace citare, oltre al Festival di Montreux, che senz'altro conosci, il Festival Jazz di Villisau, che ha una grande tradizione, e quello di Ascona, naturalmente, per quanto riguarda le nostre latitudini, ed Estival Jazz, che pure va citato. Citavo quello di Villisau perché è rimasto un festival, diciamo, duro e puro, che cerca di evitare contaminazioni e continua a proporre musica che va anche verso l'improvvisazione libera, quindi verso ambiti che, come sappiamo, non riscontrano magari i favori del grande pubblico, ma non per questo vanno ignorati, naturalmente. Quindi seguite un po' di tutto, dalla musica classica al jazz contemporaneo, cose estreme e musica anche un po' più tradizionale. Quindi avete in qualche modo educato col tempo i vostri radioascoltatori a fruire di tutto ciò che passa il convento. Beh, l'idea è quella di rivolgersi ai curiosi, e la curiosità in ambito culturale va foraggiata, come dire, perché non è da tutti. Questo però non è per fare delle, come dire, per creare dei compartimenti stagni. È chiaro che tu sei una persona curiosa, io pure, e il mio augurio è che tutti diventiamo curiosi e quindi aperti ad ascoltare qualunque cosa per poi dare il nostro giudizio, naturalmente. Visto che sei una persona curiosa, conosci questo album abbastança vecchiotto di Dizzy Gillespie? Ma l'ho scelto per te proprio perché a Babilonia proponete sempre delle perle, cose molto particolari, e qui Dizzy Gillespie non si cimenta nel repertorio classico bebop, ma neanche nel repertorio afro-cubano. Potresti, vedo che lo conosci il disco benissimo, lo vuoi presentare in puro stile Babilonia, questo Pur Joe di Dizzy Gillespie? Dizzy Gillespie è un musicista babilonico e in questo caso caraibico, quindi si cala in atmosfere che magari non leghiamo a filo doppio alla sua discografia in genere, ma come tutti i grandi musicisti è capace di sorprendere, ed è questo che ci piace. Now Joe was once in the army. He was fighting for his Uncle Sammy. He came right through without a scratch, but now he's really meat he match. Poor Joe. He tried to beat his wife. Poor Joe. He nearly lose his wife. Poor Joe. Every time he raise his hand, she knock him in the head with the frying pan. Poor Joe. got above the floor. Order. He tried to reach the door. Order. But she catch him as he ran and knock him in the head with the frying pan. Eh sì, ha fatto bene Sergio a ricordare che questo era in puro stile caraibico per un Dizzy Gillespie dannata in Poor Joe. A chiudere questo appuntamento del soundcheck di Radio 24 sei stato gentilissimo, grazie per l'ospitalità. Sergio, grazie, tornerò prestissimo a trovarti qui a Rete 2, RSI, Radio Svizzera Italiana. Complimenti per lo studio di registrazione e complimenti per la bellissima musica che produci e realizzi e proponi su Babilonia. Grazie, grazie a te, un caro saluto agli ascoltatori di Radio 24. Grazie a Sergio Albertoni e noi lasciamo i radioascoltatori di Radio 24 con Who, il super funk di Marcus Miller con il suo basso elettrico. Buona giornata a tutti da Giorgio Telespo. Soundcheck. Il suono della musica.